voi volete vivere bene questo paese, vi piacerà. Basta soltanto volersi bene, il mago sì, ci sa governare. Dateci retta, venite qua, questo è il paese della felicità. Qui tutto è bello, tutto è magia, non c'è tristezza né nostalgia. Se voi volete vivere bene questo paese, vi piacerà. Basta soltanto volersi bene, il mago sì, ci sa governare. Dateci retta, venite qua, questo è il paese della felicità. Qui tutto è bello, tutto è magia, non c'è tristezza né nostalgia.